Pronti, partenza, via. Il TSO, acronimo di Trattamento Sanitario Obbligatorio, è una procedura medico-legale che viene attuata in casi di emergenza medico-sanitaria in maniera congiunta dal personale medico e dalle forze dell'ordine. Per domare la mia rabbia, per domare quel che sono.